Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. All I'm asking is for respect for you. Respect. Cari miei, ha detto Franklin. Ma Oscar ha voluto proprio dire mettiamola per rispetto nei confronti delle donne. Beh, questa è una canzone mito, un inno secondo me. Poi se ti ricordi in Blues Brothers come la coreografia, come la cantava, imponendo la sua presenza e la sua voce ai due. Insomma, certo. È una bella immagine per dare un senso a questa giornata che ne ha, di riscatto, eccetera. Però anche perché, care donne, fa così, la prende alla lontana perché adesso vuole stroncare lo sciopero. No, caro, io, ma anche io sono contrario. Il nome a tutela e a difesa, modestamente, senza voler parlare se non a nome mio, del significato di questo giorno. Cosa c'entra sospendere i servizi pubblici in questo giorno? Me lo spieghi? Io tra l'altro noto questa cosa. Il giorno in cui, ieri me lo faceva notare qui in redazione, il giorno in cui le donne hanno il biglietto gratis sui mezzi pubblici, l'8 marzo, da tradizione, scioperano. Sì, e quindi anche ieri ho fatto un tweet, ho detto è una pazzesca, l'ho fatto, la penso così, cioè. Non vedo perché un giorno di ricordo del passato, dei passi avanti fatti, di tutto quello che è ancora aperto da fare, deve diventare una roba per sospendere i servizi pubblici. La mia risposta è no, non lo capisco, non lo posso. Però c'è in tutto il mondo, lo sai che sono 40 cosa vuol dire? Rotti paesi, no, dici, anche le guerre mondiali ci sono in tutto il mondo, però non è che siano una buona cosa quando avvengono. Quindi, comunque, prima dei santi, ditelo subito, donne soprattutto oggi, chiamateci donne soprattutto, 800 24 00 24, non scioperate con il centralino di Radio 24, non scioperate come ascoltatrice, anzi chiamateci e diteci e spiegateci che ne pensate, vostra, dite soprattutto in questo paese cosa resta fare, cioè tantissimo. Questo è vero che abbiamo un welfare, delle regole pubbliche e private non di parità, cioè restiamo il paese col maggior carico di lavoro non retribuito quotidiano a carico delle donne, perché la cura parentale la lasciamo a loro, va bene, però lo sciopero proprio non ti va giù, no, la trovo un vecchio riflesso condizionato. Del resto, tutta la storia di questo 8 marzo è una storia molto politica, no? Lo sappiamo, tutta la leggenda, una leggenda infondata ma ancora viva, per cui la data fu scelta per l'incendio in cui perirono molti operai a New York. In realtà quell'incendio nel 2008 non è mai avvenuto, si fa confusione con l'incendio di 3 anni dopo. La giornata nacque per la prima volta a seguito di un confronto tra le donne dell'Internazionale Socialista nel 1907, la Kollontai, Rosa Luxemburg e così via. Ed è inevitabile, cioè è rimasto questo segno politico molto forte e non c'è niente di male. Però lo sciopero dei servizi pubblici. ma lo sciopero generale, quindi essendo generale anche dei servizi pubblici. Sì, ho capito, appunto, la sciopero della scuola. Grazie a tutti. Grazie, faccio un grazie pubblico ai maestri di Mattia e ai maestri di Angelica che lavorano regolarmente. Non c'è la mensa, ma insomma, grazie. Ecco, però ammettilo, no? Che sarebbe un problema. Sarebbe un grave problema per me. Comunque, detto tutto questo, sì, San Giovanni di Dio, portoghese, straordinario personaggio, giovanissimo, se ne va in Spagna, fa una vita raminga, diventa un soldato di ventura, è la battaglia di Pavia qua con Carlo V, e all'assedio di Vienna contro Solimano II, poi conversione, Spagna, diventa un povero, tanto povero che lo ricoverano in manicomio. Dicono: questo non è che sia un convertito, questo è pazzo. E il manicomio capisce che bisogna assistere i matti e i malati. Quindi da pazzi a santi figura. È proprio un passaggio. È che... un continuum, per così dire, cioè, non no. c'è soluzione di continuità. Ma è classico, però, di questo 500 e 600 che poi porteranno al canone della Controriforma. Insomma, l'esperienza borderline. Viene assunta nel canone ecclesiastico come qualcosa di positivo, e a dimostrazione che i cattolici non per questo non sono attraversati da crisi di fede profonde come più tardi saranno i luterani e i protestanti. C'è anche questo nella composizione del Pantheon dei Santi della Chiesa. Per me questo giorno è il giorno dell'assunzione al trono, dire Oscar I in Norvegia, in Svezia, nel 1844. E Margherita non ti fa regali? No, perché naturalmente lei sostiene che era meglio la mamma, e quindi... Del resto anche alcune politiche italiane sostengono... No ragazzi, ma ci sono delle cose straordinarie oggi sui giornali. Lara Comi, che per giustificare il fatto di avere assunto la mamma come assistente parlamentare, ha detto: volevo la mamma. Ero giovane, avevo 26 anni, ero sola a Bruxelles. E tra l'altro, insegnando lei italiano, mi scriveva i discorsi. Sentiamo Lara Comi. Quando sono entrata al Parlamento Europeo nel 2009 il regolamento stava cambiando, perché precedentemente si potevano assumere parenti e familiari. Io onestamente, come persona mia massima di fiducia, è mia mamma e mio papà, quindi il commercialista mi disse che questo si poteva fare per un momento. Posso dire che il mio rispetto è che sia assolutamente sincera. Ma certo, sono sicuro, cioè, 26 anni sperduta. Per molti versi che rende ancora più... Sì, tra Bruxelles e Strasburgo, in mezzo a questi, così un po' lei scricciolina, dire datemi la mamma, dov'è la mamma? Quindi ha assunto la mamma che le scriveva, però non si poteva fare dopo un anno, e ha dato la colpa al commercialista che non l'ha avvisata. Poi Oscar, ma scusa, oggi c'è la rivelazione mondiale e tu fai finta di niente, cioè la CIA. Ci spia. ci spia. Come dire, l'acqua bagna. Cosa? con le TV, hai notato? Con le TV Samsung. Non si sa perché le altre TV no. Oggi sono quelle più multitasting e avanzate. No? Gli schermi piatti Samsung, tra l'altro, sono anche tra i più diffusi. Sì, no, va bene. Però dovevi aver messo la chiavetta OBS, quindi sai, la percentuale era bassissima. Capito. Comunque, quindi... non credo che nessuno ignori e cadi dalle nuvole col fatto che con qualunque schermo di PC ti possono ascoltare dovunque. Ma certo, ma se sei collegato a internet, voglio dire, è una porta, stiamo scoprendo, è una porta aperta, no? Bella scoperta, cioè, benvenuti nel mondo. No, ma capisci che titolare legge oggi su tutti i giornali, la CIA ci spia, sembra proprio come dire una roba, la vecchia canzone. Cioè, l'NSA è in grado di capire cosa fai chiuso nel tuo bagno, cioè... Detto tutto questo, infatti oggi a me fa molto ridere, perché oggi è l'anniversario di un'altra grandissima frase storica. Pensa che oggi nel 1983 Reagan ha un'associazione di evangelici, perché poi la politica americana è sempre un singolare intruglio di religione, secolarismo eccetera, pronunciò il famoso discorso rivolto all'Unione Sovietica, in cui invitò i cattolici credenti e gli evangelici americani a non dimenticare che la Russia, anzi l'Unione Sovietica, era l'impero del male, no? E oggi è il giorno dell'impero del male, e usò proprio i toni biblici dicendo: voi non potete per condannare le armi tirarvi fuori da quello che è il confronto tra l'esercito del bene e l'esercito del male. Che bello, tornare a questi confronti. Quindi come vedi, il giorno della CIA, ricordiamo poi qual è l'impronta di tutto questo. Comunque, donne, è arrivato la rotina. No, sembrava arrivato la rotina. Donne, è l'8 marzo, 800240024. Allora dovete sfidare questo satanasso di Oscar Giannino, che ha definito lo sciopero generale una con puntini in sospensione. Noi vogliamo salutare Marco Bentivogli, che è segretario generale della FIM CISL, quindi metalmeccanici della CISL, è uomo, e quindi insomma parliamo con un sindacalista uomo, siamo tre uomini, quindi è facile, no, Bentivogli? Adesso tanto, che ne pensa di questo sciopero generale? Ma intanto buongiorno a tutti, sì. In realtà io esprimo quello che è il pensiero delle donne della mia organizzazione, che non hanno scelto che lo sciopero non è esattamente una strada intelligente, cioè massimo rispetto per chi sacrifica salario, per chi lotta in tutte le parti del mondo, pensare con le parole che ha usato la mia segretaria generale della FIM di Brescia, la prima cosa che mi ha detto è: Marco, mi raccomando, noi non scioperiamo, perché è un'iniziativa che mi ricorda la raccolta delle firme contro l'AIDS. Ecco, le donne metalmeccaniche sono così, insomma, sono persone concrete, dicono che bisogna fare l'8 marzo tutti i giorni nella quotidianità, e con un sindacato che diventa un soggetto educativo, che fa cultura di rispetto. E quindi sembra uno strumento, come dire, non proprio consono alle battaglie che si vogliono perseguire. Lo sciopero è uno strumento importantissimo, però è uno strumento, e se non è correlato a un obiettivo e a una finalità e viene aizzato e sparato quando c'è una rabbia, in questa fase molto giustificata, avere il primo presidente della più grande potenza mondiale che usa modalità e termini del macismo più becero, sicuramente fa rabbia. I dati sulla violenza delle donne sono raccapriccianti anche nel nostro paese. C'è però da verificare se la risposta spot di una giornata di sciopero, in cui si bloccano i servizi pubblici, in cui si bloccano le scuole, è utile a far avanzare questa cultura. Ecco, le donne della mia organizzazione, organizzato un'iniziativa il primo marzo insieme a FIM, FIOM e WILM, tutte insieme, che si chiama appunto Il coraggio di una, la forza di tutte, perché nel mondo dell'industria abbiamo deciso che sono altre le cose da fare, e non abbiamo solo detto bisogna fare ben altro, lo stiamo facendo. Ecco, la quotidianità di queste cose è fondamentale. Però secondo me lo sciopero è uno strumento per portare avanti delle battaglie, ma anche per, come dire, mettere un punto, come dire, se in tutto il mondo, in 40 e rotti paesi, si fa questa iniziativa, soprattutto nasce, ricordiamolo, contro i femminicidi, contro le violenze, cioè, come dire, vedete che... Vedete che siamo in tante a dire questo. Non sto dicendo che con uno sciopero si ottiene la Ma lo sciopero, intanto, è uno sciopero che faranno donne e uomini. Il giorno dopo è il problema. Il giorno dopo il mondo dirà, e quindi invece probabilmente bisognerebbe cercare di fare percorsi che durano. Questo varrebbe costantemente per tutti gli scioperi, insomma. Gli scioperi servono davvero. Questo vale. Cioè, lo sciopero io lo vedo più come un momento di protesta. Perché il problema è che lo sciopero deve essere mirato su un punto. Cioè, io capisco, c'è un'avvertenza d'impresa in cui l'impresa mesi e mesi non capisce, proprio zero, si volta dall'altra parte. Allora, certo che serve lo sciopero, questo serve nel pubblico, nel privato, eccetera. Ma per elaborare, per esempio, che è una mia curiosità, domanda a molti voi, qual è l'impegno? Quali sono gli strumenti di verifica? Da cosa dipende? E soprattutto obbligare, tra virgolette, l'impresa pubblica o il datore, l'impresa privata o il datore pubblico a monitorare con protocolli precisi nel tempo la questione. Ma perché le retribuzioni femminili restano in media così spesso inferiori a quelle maschili? Ecco, a questo problema, Alessandro, secondo me lo sciopero non è in grado di dare come strumento tipo di risposta. Certo. E soprattutto, ma perché continuano a guadagnare meno così spesso? Ma allora, il problema nella sua forma non c'è, nel senso che anche per la nostra Costituzione, per la contrattazione non dovrebbe parità di retribuzione. Il problema reale, tralasciando una cosa che non sarebbe da tralasciare, cioè tutto il sommerso, le cose irregolari che in Italia sono tantissime, c'è un problema di inquadramento professionale, e cioè come possibilità di valorizzazione oggettiva ed obiettiva della professionalità. Cosa voglio dire? C'è un problema di meritocrazia, e la meritocrazia è spesso una cosa di cui si abusa tanto nella evocazione, ma che si pratica pochissimo, con responsabilità anche nostre come sindacati sicuramente. Però abbiamo i sistemi di inquadramento professionale meno oggettivi e obiettivi possibili d'Europa in Italia. Noi abbiamo, vi racconto questa, nei metalmeccanici per fortuna quest'anno ci abbiamo messo fine. Abbiamo un inquadramento con cui si dà la professionalità alle persone fermo al 1973. È ovvio che avere un inquadramento vecchio, non rispondente al lavoro di oggi, consente gli abusi, se ci sono discriminazioni, e nel caso di genere ce ne sono, di non far proseguire e consentire il percorso professionale di valorizzazione troppo spesso nei confronti proprio delle donne. Vabbè, questo è il cuore del problema, ma su questo lo sciopero non ha grande efficacia, perché il giorno dopo, io penso tra l'altro, gli scioperi sono, anche se stamattina tutti i telegiornali hanno parlato come di uno sciopero generale, cosa che non è assolutamente vera. Io penso allo sciopero nel trasporto pubblico, dove ci sono le partecipate pubbliche indebitate. Lo sciopero fa guadagnare quelle società, per cui addirittura ridicolo. No? Sentiamo l'articolo del Fatto Quotidiano che racconta esattamente questo, dove le società sono indebitate e gli scioperi spesso avvantaggiano, per cui è addirittura uno sciopero a favore della controparte, paradossalmente. Sentiamo Bentivogli perché stanno chiamando le nostre ascoltatrici. Domenica ci chiama da Ravenna, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io lo sciopero di oggi lo trovo inopportuno, improprio. Userei anche un termine più forte di quello che ha usato Oscar. Mi trattengo, perché sono un insegnante, un educatore, quindi quello che a me dispiace è che purtroppo la condizione della donna sta andando indietro, perché tutto quello che è stato fatto negli anni, molto per me è stato vanificato, perché come dicevo sono un insegnante, quindi di un istituto di scuola superiore, e le ragazze le vedo crescere. Sì. E purtroppo le discriminazioni di genere ci sono, e su quello io avrei preferito un evento mondiale, un ciclo di seminari, ma lo sciopero proprio no, grazie. Beh, in qualche modo è un evento mondiale, certo, è un evento che non le piace, ma c'è in tanti paesi nel mondo proprio. Però la formula utilizzata è questa dello sciopero, che lei contesta. Grazie Domenica. Donatella da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono favorevole allo sciopero. Sì. Sono favorevole perché è un movimento internazionale di donne che si sta muovendo, e che parte addirittura dalla Polonia, ottobre 2016. Ma poi sono favorevole specialmente perché per la prima volta siamo nei telegiornali, nelle trasmissioni. Quindi il perché dello sciopero è già insito in questa novità. Come dire, almeno si porta la sensibilizzazione pubblica, l'opinione pubblica al problema. Il 26 di novembre la manifestazione che c'è stata a Roma, dove donne, uomini e bambini sono scesi in piazza in 250.000, lo spazio mediatico che ci è stato dato era veramente irrisorio. Risultavamo, come dire, un fenomeno sociale, per cui inserito alla fine dei telegiornali, e non un fenomeno politico, perché quando 250.000 persone scendono in piazza per protestare contro la violenza sulle donne, non è un fenomeno sociale, è la ragione è politica, come politica tutta quella che facciamo noi ogni giorno quando cerchiamo di combattere per avere rispetto dei diritti delle donne. Va bene, Donatella. Fiume in piena, scusate. Cioè, la mia opinione è questa: quando si parla di politica, si parla di posizione di parte, sa? Io credo che le battaglie dei diritti vadano impoliticizzate il più possibile, perché sono battaglie di civiltà. Mentre tutti. Invece lo sciopero esattamente fa quello che lei dice, a fini mediatici posso essere d'accordo. Il problema è la marchiatura politica che c'è sulla battaglia per i diritti delle donne. C'è dall'inizio, perché ripeto, nasce nella seconda internazionale in una precisa sessione del 2007, di cui sappiamo, ho ricordato alcune delle due più note figure di socialiste rivoluzionarie. Benissimo, lei mi dirà la storia, Giannino, quindi fatela andare bene. Sì, però poi, perché il progresso, cioè l'affermazione della parità, dell'eguaglianza, per esempio raddrizzare il welfare più ostile alla donna, alla famiglia, ai figli, cioè quello italiano, la mia opinione è che questo meno diventa una battaglia solo di una parte contro l'altra, in un paese in cui in nome della questione cattolica abbiamo fatto meno passi avanti che negli altri, e non perché fosse davvero la religione cattolica a imporlo, ma perché c'era una strumentalizzazione da tutte le parti politiche su questa questione. Ecco, io finisco la mia risposta a lei dicendo: capisco, però io credo che la politicizzazione sia un pezzo del problema più che un pezzo della soluzione. Naturalmente la mia è un'opinione minoritaria. Noi intanto, nel ringraziare Marco Bentivogli che è stato con noi, segretario generale della Film CISL, grazie Bentivogli, dobbiamo andare in pubblicità, riprendiamo poi dagli ascoltatori, ascoltatrici, c'è Chiara da Treviso, ci sono anche tanti altri ascoltatori, e poi parleremo anche un po' di questa vicenda dell'Unione Europea, perché tutto nasce dai controlli dell'Olaf. L'Olaf, cioè, è l'ufficio antifrode dell'Unione Europea. Sapete che a capo, come direttore dell'Olaf, c'è un italiano, un magistrato italiano. Perché storci? No, il nome? Si chiama Giovanni Kessler. Kessler, come le celebri. Scelgono un italiano, lo scelgono di lingua tedesca. Per questo vabbè, mica, adesso, ma, non, ma, è che, ma è così, perché vogliono uno rigoroso. Mica, effettivamente, la Corte Penale Internazionale abbiamo anche il mitico Kuno Tarfus. Esatto, quindi come vedi, grande amico, parlo grande per magistrato conoscenza, di Bolzano, non tanto per fare battute. Ah, devo approfondire questa cosa. Cioè, certo. Li scelgono, diciamo, appena al di sotto, come delle dice alte. La moglie di Cesare deve anche apparire, non solo essere al di sotto, vabbè, di ogni sospetto. Quindi se c'è il cognome tedesco è rigoroso anche nell'apparenza oltre che nella sostanza. Tra poco 24 mattino, attenti a noi due. Allora Oscar, guarda quante ascoltatrici. Chiara da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Siete tantissime, quindi siate sintetiche per cortesia. Sintetissima, altrimenti... Intanto è un piacere potervi salutare, che ti seguo sempre. Grazie. Nello specifico io condivido totalmente la linea Giannino sulla manifestazione odierna, nel senso che anche secondo me le azioni così a spot, e in particolare con lo strumento di uno sciopero che poi va a penalizzare alla fine l'utenza debole e sovraccarica semmai in questa giornata le donne rispetto ai compiti anche di cura e di organizzazione, logistica della famiglia, eccetera, è controproducente ed è insensato, a mio avviso. Mm-hmm. Okay. Servono cambiamenti culturali che non si ottengono certamente con queste modalità. Va bene, insomma, è molto chiara. Opinione. Ah, poi devo dire, c'è da dire, Oscar, sei un crumiro. Giannino, messaggio, sai, e ha invitato Bentivogli un crumiro perché sei della radio di Confindustria, si vede proprio. Ah beh, questo vabbè, qui, punto. Sorrido. Certificato a capo. Andiamo avanti. Ci sono anche questi tipi di così. Barbara c'è da Milano, buongiorno. Barbara. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci, buongiorno, e anche per me è un piacere intervenire. Grazie, e ascoltarvi come tutti i giorni. Dica. Io invece stamattina mi sono alzata mezz'ora prima perché sto venendo a Milano, abito fuori Milano, ma non l'ho fatto con dispiacere perché sono convinta che la sindrome della brava ragazza che deve protestare con ben altri metodi, peraltro lavoro in una multinazionale nel settore dei diritti che è molto attiva nel tema della diversity, ci sono tanti programmi eccetera, ma credo che molte altre aziende italiane che per lavoro frequento invece non abbiano questa stessa sensibilità, io credo che sia necessario usare ogni mezzo, compreso questo che a me personalmente reca qualche disagio ma non mi infastidisce. Peraltro sorrido perché io frequento anche ATM in via Monterosa per questioni sempre di lavoro. Sì. E, insomma, lì donne non ce n'è, ecco. Le vedo spuntare alle 5 del pomeriggio con lo spazzolone in mano, generalmente non ci sono neanche alla reception, non ci sono in posizioni apicali, tantomeno in posizioni, diciamo così, di fascia media. Quindi mi chiedo chi sono queste donne che stiano in questo momento sciaporando. Sicuramente sono poche. Quindi ATM, ricordiamo, l'azienda dei trasporti di Milano. Esattamente. Vabbè, quindi Barbara, per lei è uno strumento ci vuole giusto, che ci vuole tutto. Bassa non sta funzionando, non basta. Al di là scevra da ogni connotazione politica, a me non interessa, però credo che vada superata la sindrome della brava ragazza. Bella questa immagine comunque della sindrome della brava ragazza. Oscar, sei perplesso? Cioè, no, bisogna protestare. Stavo riflettendo anche sul fatto che implicitamente la nostra ascoltatrice, che abbraccio e ringrazio come ovvio, come con tutti gli ascoltatori, perché l'opinione sono liberi, sono da tutto personali, soggettivi, ci mancherebbe altro, però nel dire no alla sindrome della brava ragazza, lei aderisce implicitamente all'idea che è da cattive ragazze, per parlare oggi. Questo... No, è da alzare la voce, ecco. Cioè, per non, me non, è uno strumento, cioè, vecchio, io lo dico sempre, gli scioperi generali o comunque per questioni trasversali che non hanno a che vedere con punti concreti di una trattativa bloccata su punti irriducibilmente contrapposti, allora, lì lo sciopero lo capisco, altrimenti è uno strumento uliso, però se serve per parlarne, per carità, allora, infatti, però con questo criterio ci sono 365 buone cause con cui farne uno ogni giorno dell'anno, eh. Questo io ho l'obbligo di dirlo e di pensarlo, quindi il mio non è un no pregiudiziale, è proprio un no sul tipo di strumento. Sentiamo anche Caterina da Macerata, così abbiamo sentito, ah, tutte donne oggi, vedi, abbiamo, detto, abbiamo invitato le donne a chiamare, vedi. Caterina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, concordo con quello che ha appena detto Giannino, queste occasioni di sciopero sono probabilmente l'occasione per parlare in realtà di stereotipi femminili, che ma alla fine sono sempre i termini con i quali ci si riferisce alla donna. Io in particolare faccio un breve cappello, ho tre figli, lavoro a tempo pieno, quindi per me è più interessante propormi come donna in quello che faccio, per quello che sono. E mi domando invece, a proposito di stereotipi, dove sono le femministe quando per esempio si parla ormai sempre più spesso di utero in affitto, gravidanze surrogate, e quindi quando effettivamente c'è un reale sfruttamento della donna in una situazione che ormai si sta avvicinando anche nel nostro paese. Beh, non è vero che non si sentano, Caterina, anche su quei temi il dibattito c'è, magari non è dalle prime pagine dei giornali, però no, c'è. Però comunque posso dire un altro, al volo, perché io non voglio intervenire troppo. Per esempio, quante donne, delle poche, troppo ancora poche, che raggiungono posizioni apicali, quando poi sono in quelle posizioni apicali si uniformano per non apparire donne. Io faccio sempre un esempio, che una ex, l'ex manager che ha guidato questo gruppo, io mi ricordo che un giorno gli disse: scusa, sei arrivata alla guida delle Sole 24 Ore, ma adesso lo fai l'asilo aziendale? Dice: ma Oscar, riposa, ma se io mi metto a fare avanzare una proposta simile così amministrazione, mi dico: ah, è arrivata la donna. Dico: ma scusa, ma allora non cambierà mai la faccenda? E non è una critica a lei, però questa faccenda dell'uniformazione e dell'omogazione, poi quando si arriva a sfondare il tetto di cristallo e si diventa manager, è un fatto o no? Ai miei occhi, dopo tanti anni che faccio l'osservatore di vicende finanziarie nelle società, mi sembra di sì, per esempio. Comunque, vedete, il tema c'è, se non altro ne abbiamo parlato a lungo, però vogliamo introdurre un altro ospite, perché ieri un po' su tutti i giornali abbiamo scoperto dell'esistenza di un ufficio antifrode che in realtà da anni opera, si chiama OLAF in sigla, e il direttore di questo ufficio antifrode dell'Unione Europea è un italiano, è Giovanni Kessler, un magistrato che è con noi e lo ringraziamo. Buongiorno dottor Kessler, grazie di essere qui in diretta su Radio 24. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, ovviamente i giornali hanno raccontato, insomma, dell'ultima vicenda, i rimborsi europei, ma in realtà l'OLAF cosa fa esattamente? Ma l'OLAF, come diceva lei poco fa, è stato creato nel 99 dalle istituzioni europee, in realtà a seguito di quella che forse è stata la più grave crisi istituzionale vissuta dalla Commissione, con le dimissioni della Commissione Santer. A seguito di questo, per migliorare la credibilità e la trasparenza delle istituzioni, è stato creato un ufficio investigativo indipendente all'interno delle istituzioni europee, con il doppio compito di indagare su tutti i casi di rilevanza disciplinare o penale e su tutti i comportamenti, diciamo, poco trasparenti dei membri e del personale di tutte le istituzioni europee, dunque di indagare sui parlamentari, sui commissari europei e così come su, cioè, tutto il personale europeo. Quindi è che spulciare su quello che spendono, quello che fanno, come rendicontano i soldi. Esattamente, anche questo, diciamo che soprattutto nell'ultimo periodo è diventato abbastanza, come dire, trendy denunciare all'OLAF reciprocamente le presunte irregolarità o gli illeciti degli opponenti degli altri partiti. Ah, bello questo. Questo, cioè, è uno dei compiti. Sì. Ci si denuncia, diciamo, un partito denuncia quello che avrebbe fatto di male il collega di un altro partito. Beh, resto, quando diciamo, c'era il meccanismo delle segnalazioni al Consiglio dei Dieci, la Repubblica di Venezia, c'era allo stesso modo, caro mio. Diciamo che il mondo non è cambiato. Diciamo, il presidente Schulz, presidente del Parlamento Europeo, nel 2015, a seguito un lavoro fatto dai suoi uffici e rispondendo a un suo obbligo di presidente dell'istituzione, ha riportato all'OLAF una serie di presunte irregolarità nell'utilizzo dei fondi appunto del Parlamento Europeo per gli assistenti del Fronte Nazionale, e poco dopo è arrivata anche una denuncia degli esponenti del Fronte Nazionale, sì, contro il presidente contro Schulz, per fare cioè, un esempio, sì, contro il suo assistente. Ecco, ma noi indaghiamo e voi indagate anche su queste cose. Esatto, quello che è uscito sui giornali, quello che ci può dire ovviamente il dottor Kessler, sono partite, perché ci sono anche nomi di italiani che oggi si giustificano, sono partite da denunce di, anche in questo caso, di, come dire, oppositori alle persone indagate? Guardi, voglio dirle questo, i nomi che, sì, che sono circolati in questi giorni sui giornali italiani e le procedure di recupero di fondi che il Parlamento sta facendo nei confronti di alcuni parlamentari europei, sono in parte sono risultati di indagini Olaf, uh-huh, ad esempio Marine Le Pen, il caso di Marine Le Pen, e altri, in particolare sui casi di che sono citati di alcuni degli italiani, deputati, sì, italiani che sono citati, non sono il risultato di investigazioni Olaf, ma sono il risultato di accertamenti svolti direttamente dagli uffici del Parlamento. Ma per darle un'idea, noi facciamo decine e decine di indagini di questo tipo, non solo sui parlamentari naturalmente, ogni anno, e poi facciamo anche dai nostri compiti indagare sull'utilizzo dei fondi europei in tutto il mondo, in tutta Europa, in tutto il mondo. E c'è una cifra che ci può dire indicativa del vostro lavoro, cioè quanto si può recuperare, quanto denunciate, sì, quanto ci dica? Guardi, sì, posso darle quest'idea che l'anno scorso abbiamo le indagini dell'Olaf finiscono con delle raccomandazioni agli uffici finanziari di recuperare i fondi, i soldi europei sono stati mal spesi o che sono finiti in corruzione o in abusi o in frodi. L'anno scorso abbiamo chiesto il recupero di poco meno di 1 miliardo di euro. Accidenti. E posso anche dirle, perché è notizia proprio uscita oggi, qualche giorno fa abbiamo concluso un'investigazione dove abbiamo chiesto forse il nostro record, ma in una sola investigazione il recupero di 2 miliardi di euro. Che era relativo a che cosa? Relativa a frode doganale. Frode doganale. A una frode doganale durata anni, peraltro ancora in corso, relativa all'importazione di tessili cinesi in Europa, fortemente sottovalutati, dunque con una gigantesca evasione. Guardi, dottor Kessler, noi la ringraziamo. Il tempo purtroppo è scaduto, ma fa molto fine parlare male dell'Europa. L'Europa come uno strumento di indagine propria, ecco, che siccome fa invidia a molti ordinamenti nazionali. Se lei ce lo consentirà, la richiameremo, perché guardi che ci ha detto già due o tre dati, due o tre cifre che ci hanno incuriosito, e approfondiremo. Allora, niente primarie del PD oggi in questa trasmissione? No. Niente primarie del non PD. Non abbiamo parlato di primarie del PD, non abbiamo collegato, per esempio, i due cavalli rapiti, i due campioni. Sì. Perché li vogliono presentare alle primarie. Ai due che corrono, i due cavalli. Sono più, di due. No, quelli che hanno rapito, i trottatori sì, veri. Sì, certo, ma cosa lo vuoi correre? No, vuoi legare alle primarie del PD? Come dice Emiliano, bisogna cambiare il mare, non il capitano. Siamo al delirio. Ma è tutto vero, c'ha sui giornali. Cosa vuoi? Comunque, ci fermiamo qui e vi salutiamo. A domani.